29 ottobre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 29 ottobre. Ora son proprio contento. Il dottore aveva ragione a dire che ho la pelle dura. Son completamente guarito e per di più tutti hanno verso di me mille attenzioni e mille riguardi. Ieri ho sentito il babbo che diceva alla mamma: proviamo a trattarlo con dolcezza, a pigliarlo per il suo verso. Deve essere molto pentito d'avermi trattato con tanta severità e difatti mi ha promesso di condurmi stasera al teatro a vedere il celebre prestigiatore Morgan, che è qui di passaggio. Ci verrà anche l'avvocato Maralli, quello con gli occhiali e con quel barbone, che è stato causa di una gran discussione in casa perché è socialista e la mamma non lo può soffrire, specialmente quando dice male dei preti e di tutto, e perciò, come dice l'Ada, è una nota volgare nella nostra conversazione, mentre il babbo sostiene che in fondo è un buon diavolo, che bisogna andar coi tempi e che il Maralli si va facendo una buona posizione e che finirà certamente deputato. Fine del 29 ottobre.